La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. L'articolo 64 riguarda il funzionamento del Parlamento, o meglio delle due Camere, perché ciascuna Camera, come sappiamo, ha la sua autonomia e quindi, in base alla sua autonomia, avrà il proprio regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Questo lo stabilisce e lo ribadisce il primo comma dell'articolo 64. I commi successivi pongono il principio della pubblicità delle sedute, perché i lavori parlamentari sono pubblici, poi pone la regola del funzionamento, quindi le maggioranze, i quorum di maggioranza, e infine, all'ultimo comma, affronta il ruolo del governo in Parlamento. Procediamo con ordine. Garantire l'autonomia regolamentare significa che ciascuna Camera si può organizzare e funzionare in piena autodeterminazione. Questa ovviamente è una garanzia della piena sovranità del Parlamento, senza ingerenza di poteri esterni. Su questo punto, addirittura, si è ritenuto in via applicativa che i regolamenti parlamentari possono essere controllati e sindacati dalla Corte Costituzionale solo in via eccezionale. La Corte Costituzionale lo stabilisce questo in una interessante sentenza del 1985, quando ci ricorda che la particolare autonomia del Parlamento è una autonomia guarentigiata. Questa parola, che sa di ottocentesco, ci ricorda però il ruolo del Parlamento nelle democrazie parlamentari, quindi il Parlamento al centro del potere con garanzie speciali rispetto agli altri organi. Le sedute del Parlamento, secondo comma, sono pubbliche. Cosa significa sono pubbliche? Oggi noi pensiamo che sia soltanto l'idea di poterle vedere in diretta TV o in diretta internet, e invece ciascun cittadino può assistere liberamente alle sedute parlamentari. Basta presentarsi alla Camera o al Senato e dimostrare di essere cittadino italiano e si accede alle tribune del pubblico. Anzi, io ritengo che sia una cosa utile e importante per ciascun cittadino italiano che abbia il tempo e la voglia di andare in Parlamento e assistere a una seduta parlamentare. Ovviamente il Parlamento può anche lavorare in segreto, ma la secretazione delle delibere deve essere disposta specificamente dalle stesse Camere e solo per casi particolari. L'articolo 64, terzo comma, riguarda la validità delle deliberazioni. Le delibere parlamentari non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti. Questo in linea generale, perché poi ci sono casi in cui la stessa Costituzione prevede maggioranze speciali, come ad esempio per la riforma costituzionale secondo la disciplina dell'articolo 138. Tuttavia, nella prassi, la presenza del cosiddetto numero legale, cioè il fatto che siano presenti almeno la metà degli aventi diritto, è presunta. Ragion per cui, se nessuno dei parlamentari presenti in quel momento chiede la cosiddetta verifica del numero legale, le Camere possono lavorare anche se sono presenti soltanto poche decine di deputati o senatori. Ultimo punto, il ruolo del governo in Parlamento. Il governo non fa parte del Parlamento. E questa è una precisazione importantissima, infatti sappiamo che i membri del governo, quando vanno in Parlamento, siedono su un banco particolare, al centro dell'emiciclo, e non siedono in mezzo ai parlamentari. Questa è proprio l'idea della distinzione fondamentale, della divisione dei poteri, da una parte il legislativo, dall'altra l'esecutivo. Tuttavia, i membri del governo hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute, perché ovviamente la Repubblica parlamentare pone nel Parlamento il centro, il motore del funzionamento del sistema, e quindi il governo risponde al Parlamento non solo con la fiducia, ma anche con la presenza e tutte le informazioni necessarie.